9 in punto. La versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon 8 dicembre. Ci occupiamo oggi della situazione in Veneto a settimane dopo l'alluvione, e a indurci a tornare a questo tema sul quale, come sapete, abbiamo dedicato grande attenzione, abbiamo battuto per giorni e giorni, quando all'inizio è stata molto lenta l'attenzione dei media, quando è stata lenta la risposta delle istituzioni. Ci siamo battuti poi dopo dando voce alle imprese locali, avevamo l'impressione che fossero colpite a centinaia, poi addirittura a migliaia dagli effetti dell'alluvione. Abbiamo avuto l'impressione di un nord-est rispetto al quale in qualche maniera l'attenzione nazionale, quasi con una punta di prima di distrazione ma poi anche di dispetto, seguisse la vicenda, e dopo pochi giorni, dopo un paio di settimane, siamo tornati esattamente al punto di prima, di fronte al fatto che il governo, per via delle esigenze di gettito, non ha concesso automaticamente l'esenzione dagli obblighi fiscali inevitabilmente concessa in tutte le altre eventi analoghi nella storia dei decenni recenti. La reazione non c'è stata, se non locale. Abbiamo tornato ad aprire i nostri microfoni e a dar voce alle richieste del commissario Zaia, come di tutte le migliaia di imprese che sono nella lista che è stata consegnata al Ministero dell'Economia. E a distanza di un altro paio di settimane, eccoci qua, silenzio assoluto di nuovo. Anzi, mi dispiace, da una parte lo capisco perché sono esigenze della stampa, ma utilizzo questo esempio solo per fare riflettere chi in ascolto. Mi dispiace notare oggi, per esempio, che nei grandi quotidiani nazionali ho trovato un articolo in evidenza sul Veneto. Oggi sto parlando della stampa di oggi, pagina 27, un articolo di Giuseppe Salvagiulo, che inevitabilmente, lo capisco benissimo, fa il suo mestiere di cronista ottimamente, ed è una pagina di fortissima polemica. Il Veneto riparte dal cemento. Dopo l'alluvione, una legge per costruire sui terreni agricoli, geologi, così si facilitano altri disastri. E l'articolo, che non ha più una sola parola sulle code irrisolte delle condizioni delle popolazioni e le condizioni delle imprese, è dedicato a questa leggina approvata qualche giorno fa dal Consiglio regionale con favorevoli Lega, PDL, UDC, astenuti PD, Italia dei Valori, contrario solo Consiglio di Rifondazione, intitolata Modifica alla legge urbanistica, ed è una leggina che consente, almeno nella sintesi che ne fa Salvagiulo, a chiunque di ristrutturare edifici su terreni agricoli ampliandoli fino a 800 metri cubi, ovvero tre alloggi di 90 metri quadrati. Ci sono gli ambientalisti che insorgono dicendo: ma come, costruendo sui terreni agricoli andiamo ulteriormente avanti sulla cementificazione, quando gli mancati interventi per l'idrogeologico sono all'origine esattamente delle esondazioni del Bacchiglione e degli altri corsi d'acqua che hanno originato l'evento. Io sono d'accordo che naturalmente bisogna dar conto delle misure magari anche sbagliate, però ridurre la questione a il Veneto ne approfitta e fa cemento, forse, ammettiamolo, mettiamoci una mano sulla coscienza, nostri carissimi colleghi e direttori, forse è un po' eccessiva come situazione, o no? Siamo così sicuri che è tutto andato a posto? Noi siamo certi di no, come Radio 24, da quello che sentiamo, dal tam-tam che ci proviene dalle imprese, dai sistemi di rappresentanza locale, di non solo di Confindustria, ma di tutte le associazioni, commercianti, artigiani, dalle libere professioni. Noi siamo certi che lì c'è ancora molto da fare. In più, voglio darvi lettura, prima di presentarvi gli ospiti, far parlare loro, di una lettera che mi ha molto colpito, tra le tante ricevute. Mi ha molto colpito perché esprime anche un disagio di alcuni veneti. Non ho nessuna intenzione di attribuire a Carlo Aldrighetti, che ci ha scritto da Verona, per così dire la rappresentanza maggioritaria delle popolazioni colpite, però mi ha molto colpito per il tono con cui è scritta questa lettera. E ci scrive: per decenni il Veneto è stato considerato il meridione del nord, stessa miseria, stesso familismo morale, anche se superficialmente coperto da un pietoso velo di falsità religiosa o falsa religiosità. Poi sono arrivati gli Ischei e noi veneti abbiamo pensato di essere tedeschi d'Italia, abbiamo cominciato anche alcuni di noi magari a odiare i terroni prima, gli immigrati poi. Per un po' ha funzionato e ci siamo illusi di essere quello che non eravamo. Poi qualcosa si è rotto. Abbiamo iniziato ad accorgerci che il malaffare qua è quasi lo stesso che a Reggio Calabria. L'alluvione ha messo a nudo l'inconsistenza delle nostre istituzioni di controllo, la corruzione di alcuni apparati politici, il frignonismo opportunista di altri abbandonati dallo Stato. L'alluvione ha radici profonde, ma nulla è stato fatto per non ostacolare gli affari dei costruttori legati all''Ndrangheta, per esempio. E piano piano ci siamo accorti di essere finiti in molte parti anche nelle mani della delinquenza organizzata. Noi che continuavamo a sbraitare contro gli immigrati ci siamo trovati ad eleggere sindaci a libro paga dei calabresi. Uscire adesso da questa situazione non è semplice, anche perché dove la troviamo oggi una nuova Lega che ci salvi da quella che abbiamo messo al potere? Ecco, è ovvio che Carlo Aldrighetti non nasconde di essere ovviamente un elettore non del centrodestra, fortissimamente antileghista, contrario, come è evidente, a chi ha vinto le elezioni regionali, non lo nasconde. Però c'è un'amarezza di fondo che va al di là dell'appartenere politicamente, non riconoscersi politicamente a questo e quello schieramento. L'amarezza di fondo è cogliere come interventi opachi, non trasparenti, possano anche in Veneto essere presenti nel deviare le corrette logiche della rappresentanza. Io non amo molto, devo dirvi la verità, un paese che non distingue. Cioè io non amo molto il tono generale, per così dire, che arriva, l'impatto generale che arriva, per fare un esempio concreto recente, delle denunce savianee, perché un paese cupo in cui tutti mettono il dito contro gli altri dicendo sei 'ndranghetista non mi piace, questo ve lo dico con grande sincerità, a me piace impegnarsi ciascuno nel suo piccolo perché non sia così. Per questo vi ho letto questa lettera, perché se nell'opinione pubblica veneta, nel popolo veneto, iniziano a diffondersi anche questi scoramenti, certo è una buona ragione per rifletterci sopra, perché la fiducia in se stessi è stata da sempre una delle caratteristiche dei veneti, che sono fieri di tirarsi sulle maniche e che diffidano appunto dello Stato. Allora, parliamo con gli ospiti di oggi, perché in realtà questa trasmissione è venuta anche perché loro ce l'hanno chiesta. Abbiamo innanzitutto con noi Elisa Venturini, che è sindaco di Casalserugo in provincia di Padova. Buongiorno signor sindaco. Buongiorno, buongiorno a tutti. Abbiamo con noi Gaetano Tebaldi, che è vice sindaco di Soave in provincia di Verona e presidente della locale Coldiretti. Buongiorno Tebaldi. Buongiorno a tutti, grazie. E poi abbiamo anche collegato con noi Claudio Miotto, che è il presidente della Confartigianato del Veneto. Buongiorno presidente. Buongiorno anche da parte mia. Allora signor sindaco, come stanno le cose? Innanzitutto, nel suo comune a Casalserugo ha la quota parte dei 300 milioni arrivati dallo Stato in regione, che deve, che aveva detto che provvedeva immediatamente a distribuirla ai comuni. B, quello che ha nel comune, nel bilancio del suo comune rispetto agli obblighi di stabilità, le hanno consentito e le consentono di fare fronte a quanti tipi di obblighi nuovi oppure no? Allora, la situazione adesso deve essere gestita da un punto di vista burocratico-amministrativo. Io adesso sto continuando a dire l'acqua se n'è andata, però restano i problemi legati all'assistenza ai cittadini e al fatto che bisogna ritornare alla normalità. Adesso noi attendiamo fiduciosi un riconoscimento, un contributo da parte dello Stato per i danni che sono a carico dei cittadini, dei privati, ma poi delle imprese, ma poi anche per quanto riguarda la collettività, quindi le infrastrutture, le opere pubbliche. Noi adesso abbiamo il problema del patto di stabilità, perché il mio comune ha più di 5.000 abitanti e quindi non possiamo permetterci di spendere con le risorse attuali che abbiamo a disposizione per non sforare e quindi non rispettare gli obiettivi programmatici previsti dal patto di stabilità. Il fatto che comunque i 300 milioni che vengono destinati ai comuni sono al di fuori comunque del patto ci fa fare una riflessione però per il futuro, perché nel momento attuale noi non stiamo pagando proprio per evitare di non rispettare il patto di stabilità. Ma lei sa già qual è la quota parte del suo comune di quei 300 milioni? No, non sappiamo ancora. E nel frattempo come ha fatto con le spese aggiuntive che sono fuori dal patto? Le ha prese, le ha assunte, non pagando, dicendo tanto ce le ricopro con quella parte che non sarà nel patto di stabilità. Io lo spero proprio, perché sono le cosiddette somme urgenze, ad esempio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti andiamo a spendere più di 500.000 euro. È chiaro che io mi aspetto che la Regione a questo punto, con la quota che gli viene assegnata dallo Stato, provveda al pagamento di questo importo, perché noi non lo possiamo sostenere con un bilancio da 5 milioni e mezzo di euro. Certo, perché sono un impatto maggiore del 10%. Senta, nel territorio del suo comune, sì. Ricordo sempre che noi stiamo parlando di un evento in cui la lista che il commissario Zaia ha voluto e ripete ogni giorno, molto ristretta, per evitare che dicano che ci siano furbi dentro. La lista consegnata è di un totale di 3.433 imprese e 328 comuni colpiti, oltre 1 miliardo la prima stima dei danni. Nel suo comune, tra famiglie che hanno ancora problemi e imprese che hanno rilevanti problemi, quantitativamente come siamo messi? Guardi, sono state presentate alla volta del 6 di dicembre, che era il termine fissato dalla Regione Veneto, un termine peraltro non perentorio, per la presentazione delle richieste di contributo statale. Ce ne sono tra gli 850 e le 900 richieste, e dove sono inclusi quindi i privati e le aziende. Adesso nei prossimi giorni sicuramente ne arriveranno anche altre e staremo a vedere l'importo preciso, però parliamo di milioni di euro, ecco. E poi quello che a me interessa è anche questo fatto: al di là dei sacrosanti risarcimenti da riconoscere ai privati e alle imprese, c'è anche da considerare gli interventi che devono essere fatti sul territorio. Allora, io condivido pienamente quello che lei ha detto sul fatto di non generalizzare, è che non vorrei qui parlare di mafia o di associazioni di criminalità. Qui semplicemente ci sono degli amministratori pubblici che in questo momento si trovano in difficoltà e che devono intervenire sul territorio. Allora, il territorio padovano, il territorio comunque veneto in genere, richiede delle opere di sicurezza idraulica. Allora, negli ultimi 40-50 anni si è data priorità ad esempio al trasporto su gomma, per cui non si sono fatti magari gli opportuni interventi in termini di salvaguardia idraulica del territorio, e quindi la natura, come vede, si ribella e adesso noi ci troviamo di fronte a dei danni che devono essere risarciti. Se già a priori noi garantissimo il rafforzamento degli argini dei nostri canali, dei nostri fiumi, se andiamo a ricalibrare gli alvei dei fiumi, se andiamo a costruire opere tipo l'idrovia che collega Padova con Venezia, ecco che le piene vengono regolate, non ci sono quindi più problemi di esondazioni o di rotture arginali come è capitato, e si evitano danni di questa natura che provano anche delle sofferenze dal punto di vista umano. Ora, noi abbiamo chiesto al commissario Zaia di intervenire anche oggi, come ha fatto puntualmente. Oggi non può perché ha un impegno, sta girando, e ci ha pregato di riferire quanto segue. Ai comuni veneti più disastrati faremo avere un anticipo sulla liquidazione dei danni prima di Natale, utilizzando una prima tranche dei contributi statali indicati dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ieri il Presidente Zaia ci ha spiegato di aver fatto una riunione con i cosiddetti soggetti attuatori, cioè il personale responsabile per i singoli settori d'azione che sta operando, per trasformare appunto in atti concreti le decisioni a favore degli alluvionati. Non sapevo, a dire la verità, mi ha molto colpito che questi soggetti attuatori stiano lavorando gratuitamente per fare questo lavoro. E Zaia, la mia domanda: ma i 300 milioni sono arrivati? Ha detto no, io sto aspettando l'arrivo dei 300 milioni perché dovrebbero essere disponibili nel conto corrente del commissario, che è stato aperto presso la Banca d'Italia dal 12 dicembre, e naturalmente io sulla base di questo abbiamo già contattato le banche per poter eventualmente disporre di anticipazioni da subito. Però io le anticipazioni da subito, mi ha detto il commissario Zaia, non le ho ricevute, e quindi in ogni caso noi vogliamo dare al più presto una risposta a chi si è visto portare quasi via tutto dall'acqua. Ma il problema è che appunto o faccio l'anticipazione bancaria e devo averle, oppure i giorni ancora per la messa a disposizione del commissario dei 300 milioni devono ancora trascorrere. Questo per darvi la situazione secondo le parole del commissario. Generalmente, chiedo al sindaco Venturini, l'impressione che lei ha avuto della macchina che si è messa in moto nei primi giorni e nel periodo successivo, messa di fronte ai suoi cittadini nella condizione di dover dire ragazzi non ci eravamo organizzati bene, siamo stati colpiti alla sprovvista, di dover dire ragazzi organizziamoci da soli, e che lezione ha tratto fino a questo momento? Allora, la sensazione che io ho provato come sindaco è di profonda solitudine nella gestione di tutta la vicenda. Come sindaco nell'anno del 2010 io vengo a pagare gli interventi che nei secoli hanno fatto i veneziani, che hanno deviato il corso dei fiumi verso la laguna e quindi hanno messo in pericolo il territorio italiano. Abbiamo potuto contare tornare sulle opere realizzate al tempo degli austriaci nel ventennio fascista, dopodiché c'è stata l'abbandono di questo territorio dal punto di vista idraulico, se non con dei manufatti negli anni 60. Quindi io adesso sto rispondendo, mi si sta chiedendo di rispondere per azioni che sono state intraprese negli anni passati e che adesso non abbiamo considerato che le conseguenze che andavano a produrre. Sarebbe sbagliato, secondo me, a questo punto, criticare e fare polemica solo. Noi dobbiamo trarre una lezione da tutto quello che è capitato. Secondo me questo, tiriamo una riga, questo è il punto di partenza. Allora incominciamo ad investire sul territorio in termini di opere pubbliche, opere idrauliche per la sicurezza del nostro territorio. Incominciamo a fare di più sistema, perché quello che io ho constatato, al di là della burocrazia e al di là che tutto il peso comunque della gestione dell'emergenza grava sui comuni, con le poche risorse che hanno a disposizione in termini personali, in termini anche economici, quello che noi dobbiamo fare è sistema, perché si ragiona per compartimenti stagni, perché manca la comunicazione tra i vari soggetti, perché il sindaco si trova a scontrarsi quotidianamente con una realtà che non è coordinata. Allora, se si vogliono dare risposte immediate e veloci al cittadino, che io ho qui tutti i giorni in comune che viene a bussare, mattina, pomeriggio e sera, io devo essere posto nelle condizioni di poterlo fare. Per poterlo fare ho bisogno che gli enti superiori dialoghino con me. Quindi al di là delle conferenze stampa o dei proclami o di indicazioni generali, ho bisogno di un contatto diretto per poter poi dare delle risposte immediate ai cittadini. Tosta sta sindaca, a me a distanza piace, io non saprei dargli un'età, però non voglio neanche saperlo perché non è questo quello che conta. Cosa fa nella vita a prescindere dal sindaco? Allora, sono laureata in legge e avevo iniziato a fare un lavoro, solo che facendo il sindaco mi sto dedicando solo a quello, quindi sto rinunciando alla mia vita professionale proprio per dedicarmi alla mia collettività. Però è quello che bisogna fare, se no ci prende si cande. Io vorrei che i cittadini italiani capissero che le persone che si dedicano all'attività politica non tutte sono corrotte, anzi ho preso che la maggior parte sono persone che dedicano anima e corpo per i loro concittadini. E poi diciamoci la verità, i sindaci o comunque il livello di sussidiarietà più basso sono quelli che sono forse meglio esposti di altri livelli più alti della politica al giudizio davvero e alla comprensione vera dei cittadini. Cioè, vedere da vicino consente meglio di misurare sia l'utilizzo delle risorse, che per questo andrebbero spostate nell'utilizzo verso il basso con più autonomia, sia consente di vedere da vicino come uno utilizza meglio il proprio tempo e chi frequenta, come è vissuto, eccetera eccetera. Un secondo, perché dobbiamo passare a questo punto al vice sindaco di Soave, Gaetano Tebaldi, che è anche presidente della Coldiretti. Tebaldi, innanzitutto buongiorno, come stanno le cose da voi? Perché poi qua si parla spessissimo di Vicenza, di Padova, cioè si dimentica poi l'area del Veronese che è stata anche pesantissimamente colpita dall'evento. Da voi a Soave come stanno le cose? Intanto buongiorno. Allora, da noi chiaramente dopo la fase critica di emergenza, che è stata superata, devo dire è stata superata anche bene, grazie soprattutto a quello che è stata un po' così la solidarietà che molte persone hanno dedicato proprio alle persone alluvionate. Quindi siamo tornati alla normalità abbastanza in fretta, se possiamo dire, tutti si sono fatti sulle maniche. In pochi giorni, diciamo. La interrompo solo per ricordare a tutti i nostri ascoltatori che vale sempre la raccolta con gli SMS ai diversi gestori telefonici al 45501, e gli italiani fino al 6 dicembre avevano risposto sui diversi gestori con 2.757.000 euro. Io ripeto il numero 45501, guardate, si avvicina Natale, per cortesia, si può fare più di questi 2 milioni, prego, riprenda. Bene, intanto grazie del dato, che non ero al corrente di questi numeri, come grazie un po' a tutte quelle persone che hanno voluto un po' così contribuire alla nostra causa. Niente, la fase è stata, come dicevo, superata in tempi rapidissimi e quindi la cosa ci fa sempre molto piacere, e subito dopo ci siamo attivati per fare tutto quello che era l'informazione e l'informatizzazione del fatto della presentazione di moduli e quant'altro. Ci siamo sempre tenuti in contatto con la regione. Abbiamo fatto delle assemblee pubbliche per spiegare un po' come era il punto della situazione. Adesso, come diceva la collega sindaco di prima, con il 6 di dicembre abbiamo raccolto tutte quelle che erano le domande che erano state presentate. Adesso stiamo facendo la conta nel dettaglio e penso che con la settimana daremo i dati alla regione di quello che è stato l'effettivo danno che Soave ha avuto. Diciamo, un dato per tutti rispetto a quello che erano un po' le previsioni nostre, del fatto che noi pensavamo che noi abbiamo un paese di circa 7.000 abitanti inizialmente il calcolo che abbiamo fatto era un qualcosa come 1200 famiglie colpite, attualmente siamo attorno a 700 domande di risarcimento danni, quindi magari ecco, in alcuni casi qualcuno non ha neanche presentato la domanda per il risarcimento, perché trattandosi in molti casi di garage, cantine, dove magari se l'automobile non c'era dentro, ha fatto meglio di presentare la domanda. Beh, però un'auto percentuale di scrematura non è esattamente la regola in eventi di questo tipo, quindi mi dispiace dirlo, può sembrare che io sia pregiudizialmente filonordico, ma non è così. Io penso che i valori di un essere comune, di una civiltà condivisa, si fanno dal basso, dai comportamenti di ciascun cittadino, e solo così poi si ha titolo anche per criticare la politica, gli amministratori, eccetera. Quindi questa percentuale di autoscrematura, avete sentito che cosa vi ha detto rispetto alla stima 1200-700 poi invece che presentano domanda, è una percentuale così rilevante che testimonia che lì di gente che ha voglia di rubare soldi allo Stato ce n'è forse meno che altrove. Non voglio fare graduatorie, ma è importante che si diffonda tra tutti noi questa capacità di saper scommettere su noi stessi e chiedere meno, perché questa è la pretesa da esercitare poi, chiedendo anche che le tasse si abbassino, perché si spende di meno e ciascuno può dare e deve dare il suo contributo. Non chiedere semplicemente che siano gli altri evasori, gli altri che hanno tutto, e no, datelo anche a me. Pubblicità e torniamo a occuparci del Veneto alluvionato. Ci stava dicendo il vice sindaco di Soave, presidente della locale Coldiretti, Gaetano Tebaldi, della percentuale del più bassa poi di richieste di risarcimento presentate rispetto alla prima stima. Naturalmente bisognerà vedere se altre se ne aggiungono, ma insomma è un fenomeno un po' generale, tanto è vero che ieri il sindaco di Vicenza Variati ha fatto un appello ai suoi cittadini dicendo: cari vicentini, non fate i polentoni, muovetevi, perché i moduli arrivati in comune sono ancora troppo pochi, e quindi evidentemente non so come valutarla questa cosa. Da una parte c'è la concretezza dei veneti, dall'altra evidentemente la cifra della diffidenza nel fatto poi di averli davvero questi soldi deve spingere anche parecchio. È un fenomeno contrario rispetto a quello a cui si assiste generalmente in Italia. In Italia di solito, come sappiamo, stime iniziali, cratere, Irpinia, stime totali dell'estensione dell'area dei soggetti ammessi ai benefici, non voglio fare le percentuali perché vanno, lo sapete benissimo, in una direzione totalmente opposta a questo singolo il fenomeno che si sta verificando in Veneto. Sentiamo con Miotto, il presidente Confartigianato del Veneto, complessivamente invece com'è la situazione a suo giudizio per quello che riguarda gli adempimenti fiscali. Sappiamo che lo Stato non ha dato esenzioni generalizzate, ha proceduto distinguendo addirittura negli acconti IRES e IRPEF rispetto a quelli contributivi, ha distinto anche lì con l'impressione che poi si dovesse per quelli contributivi rispettare le scadenze, ma comunque le scadenze sono state rinviate solo di pochi giorni, e il segnale generale è: l'Agenzia delle Entrate deve fare una stima molto accurata, non crediate di potervi imbarcare verso un'esenzione generalizzata, tantomeno verso un'esenzione addirittura di anni come fu ai tempi del Friuli. L'impatto che questa situazione ha avuto sulle imprese artigiane e complessivamente sull'economia delle aree colpite, e comunque le prospettive oggi come sono secondo Miotto? Faccio mie le parole del sindaco Venturini: ci siamo sentiti soli. Lei l'ha detto in maniera anche più compiuta, e sono anche nostre. E soli non come impresa, perché il sistema anche di essere appartenenti a qualcosa, a un'associazione, a un'organizzazione, ha aiutato, però bisogna che sappiamo fare squadra meglio, questo fuori dubbio, e con tutti i vari livelli. Questione fiscale, noi abbiamo fatto tre richieste molto semplici. Considerando, attenzione, un dato, che le imprese che sono veramente, che hanno la necessità, nel complesso delle aziende venete, quelle del mondo artigiano sono il 0,3%, vale a dire sulle 145.000 imprese artigiane presenti nel Veneto, di queste solo il 0,3% sono quelle che sono alluvionate, nel contesto di tutte le imprese il 0,9% del Veneto, quindi una cifra talmente irrisoria che se lo Stato non ha questa sensibilità di attenzione sulle questioni fiscali, è difficile capire di essere parte di uno Stato. Le sospensioni fiscali che abbiamo richiesto sono quelle di proroga a giugno 2011. Sappiamo anche che non lo può fare il Ministro per decreto, perché va a scavalco su due esercizi, ma deve essere una legge dello Stato. La promessa è che entri nel mille proroghe. Il posticiparle di giorno in giorno, il 10 e adesso il 19, il 20, credo dovrebbe avere questo senso, speriamo che sia solo un tecnicismo, ma che veramente avvenga questa, perché sarebbero soldi reali lasciati all'interno delle aziende che andrebbero investiti per superare i momenti di difficoltà. E comunque il nostro compito, appunto, prendendo fino a un certo punto sul serio le promesse, è quello di continuare a rompere le scatole tutti i giorni, perché si faccia così e perché questo entra nel mille proroghe dandovi voce e continuando a rappresentare la situazione di questa impresa. Si tratta di ringraziare, si tratta di avere chiaro che quella è una parte del paese in cui si fa un valore aggiunto che in altre parti del paese non si fa. Quindi in questo momento di così bassa crescita nazionale, assistere a braccia conserte e dire vi sta bene tanto gli sketch l'avete, significa non capire come funziona l'economia italiana. Ci sono parti dell'economia e delle aree territoriali italiane dove si fa il più della crescita breve. Dare una mano perché non si fermino le cose lì, anche nel più piccolo esercizio, significa dare una mano e contribuire al fatto che la crescita breve, che è così bassa nel nostro paese, non si deprima ulteriormente. È questo che vorrei che chi ci ascolta in Calabria, in Sicilia, in Sardegna capisse. Qua non si tratta di fare un favore ai veneti, qua si tratta di fare un favore a noi stessi, visto che cresciamo così poco, e di là, vi ricordo, è anche la regione più manifatturiera d'Italia, più di quella del nord-ovest, più della Lombardia, e noi cresciamo grazie all'export manifatturiero fatto dei piccoli organizzati in filiere che ci sono esattamente lì e sono il più, come vi ha giustamente riconosciuto il presidente di Confartigianato, il più delle imprese colpite appartengono esattamente a quelle tipologie. Qualche telefonata e poi ci ha raggiunto Giuseppe Bortolussi, il nostro punto di riferimento quando si tratta del segretario della CGIA di Mestre, e tante volte lo sentiamo non solo per i dati veriti ma in queste ultime occasioni anche per questo. Ma sentiamo alcune telefonate e poi le commentiamo con lui. Innanzitutto ci chiama Andrea da Treviso, prego Andrea. Sì, salve Danino, bravo Danino. Volevo che suggerisse ai sindaci che sono qua del Veneto, che hanno questi problemi in questo momento, di non lasciarsi fregare dall'umanità, perché credo sia una cosa umana chiedere che vengano risarciti anche molti danni, però devono i sindaci tenere duro e soprattutto incentivare su delle aree protette la nuova costruzione con questi nuovi risarcimenti, e non fare capannoni in mezzo a zone che poi portano di grossi problemi. Questa è un'occasione che non si devono lasciare sprecare. La tutela territoriale si fa dal basso, giustamente dice lei, quindi bisogna che le comunità locali e i sindaci su questo aprano gli occhi sulla lezione del caso. Grazie Andrea. Sentiamo poi Maurizio che ci chiama da Padova. Dottor Giannino, buongiorno, buongiorno a tutti gli ospiti. Io adesso stavo passando lungo gli argini del Bacchiglione a Padova. Com'è la situazione sugli argini? Ecco, dottor Giannino, guardi che gli argini è un disastro. Io non ho idea quanti soldi ci vorranno per mettere a posto quegli argini. Il sindaco di Casal Seruo probabilmente lo saprà, ma gli argini sono spariti dagli argini in centro a Padova. Al Bassanello c'è un buco, è sparito un quarto di argine, è sparito una roba, non so quanti soldi ci vorranno per mettere a posto, perché ogni volta che piove un po' si alza e il Bacchiglione fa sempre paura, e queste opere sono state fatte da Mussolini e alcune ancora dai veneziani, ci sono le botti, le famose botti. Beh, Maurizio, sui veneziani, come ha sentito il parere del sindaco Venturini, era un po' controverso, perché dice i veneziani poi drenavano e portavano alla laguna, e quindi insomma non è che abbiano poi fatto un grande effetto, da quello che ho capito bene, ma forse ho capito male, perché in realtà da quello che ricordavo io le opere idrauliche della Serenissima, anche in terraferma, e malgrado la residua dialettica terraferma contro Venezia, che c'era, risuonava come un eco culturale nelle parole del sindaco Venturini, io sapevo che bene avevano fatto. Ma adesso poi tanto torniamo a dare la parola anche al sindaco e sentiamo meglio da lei. Sentiamo ancora Mauro che ci chiama da Mantova, prego Mauro. Buongiorno signor Giannino, è un piacere parlare con lei perché è una persona calibrata, intelligente e preparata. No, non mi faccia complimenti, venga al punto. Allora, dicevo, io nel Veneto ci lavoro, tuttora lavoro a volte a Verona, Vicenza, mi capiterà di lavorare a Treviso, Padova, ma io vedo un'operosità totalmente diversa dalle altre parti. Io ho lavorato in Emilia Romagna, ma in Emilia Romagna non c'è quell'argento vivo nell'operare le persone. Vedere lavorare nel Veneto e in Emilia Romagna è tutta un'altra cosa, anche in Lombardia è tutta un'altra cosa. Cioè il Veneto va, scheggia, è elettrico, produce, non si pensa neanche lontanamente di sfruttare l'occasione per mettersi i soldi in tasca. Non è stupido, ma è leale all'etica. Grazie Mauro. Guardi, c'è anche una spiegazione che non è solo antropologica. Le spiegazioni antropologiche bisogna un po' diffidarne, a dire la verità. Certo che contano i condizionamenti culturali, a deriva di lungo periodo. Conta anche poi l'epoca più recente a cui si è arrivati a livelli di reddito pro capite, non solo nella media italiana, ma molto più elevati della media italiana. Il Veneto, tra tale regione che lei ha citato, Lombardia, anche Emilia Romagna, il Veneto ci è arrivato per ultimo rispetto a questo, perché il Veneto fino agli anni 60 era l'area depressa del paese. Poi, da metà degli anni 60 in poi, si pongono le basi, negli anni 70, soprattutto 80, sembra che sia molto più terziario, partite IVA, 90 e così via. Ricordate, abbiamo scoperto le partite IVA grazie al Nord-Est, poi ci siamo resi conto che nel frattempo, pre-euro e post-euro con la ristrutturazione, avevamo più manifatturiero che lavoratori autonomi. Quindi è un'area che è arrivata a tappe forzate e con grande diffusione di tipologie produttive nuove, capacità di guardare sui mercati nuovi, anche i piccoli fanno outsourcing estero e si organizzano. Tutto questo spiega la fame, capito? Il mondo resta di chi ha fame, e chi ha diciamo smaltito la fame da meno anni se lo ricorda la stessa generazione e di solito i loro figli, avendo fame, a differenza di quelli di generazioni precedenti arrivati al benessere, hanno ancora più voglia di addentare la mela, magari perdono meno tempo a andare all'università di cui non c'è bisogno del pezzo di carta, ma lavorano da prima e vanno alle aziendine, dei papà, dei nonni, degli zii eccetera eccetera, a capire come funziona il mondo. È così, secondo me, che forse bisognerebbe farlo, ma per carità, sembra che io sto facendo, inneggiando un modello industrialista o di servizi avanzati in cui si lavora da quando si ha 17-18 anni. Io ve l'ho sempre detto, più o meno, io lavoro quando ne ho 17, sarà il mio limite, io credo che sia meglio così piuttosto che a 27 come si fa nel nostro paese. Possiamo sapere dal sindaco Venturini il giudizio su le opere intanto di contenimento e di messa in sicurezza per quello che riguarda il regime idraulico, il bacchiglione eccetera nella vostra zona? Voi siete sicuri che quello che sta, che nelle prossime settimane avviene per il maltempo, non porti nuovi problemi, oppure no, sindaco? La situazione attuale è compromessa, perché tra gli argini che comunque sono imbibiti, stressati dal passaggio delle acque e dalle piene, è chiaro che bisogna intervenire. Non è detto che se è successa un'alluvione il 2 di novembre non possa più accadere, perché quando è successo nel 1966 si è iniziati tutta una serie di ragionamenti per appunto evitare che si verificassero simili episodi, e si è ricominciato a ragionare appunto dell'idrovia Padova-Venezia e a pensare ad altri manufatti idraulici, se non che dopo qualsiasi tipo di ragionamento è stato interrotto, non si è prestata particolare attenzione agli argini e alla capienza poi dei fiumi, bisogna poi realizzare anche casse di espansione delle acque, cosa che non si è fatta, e la conseguenza appunto è che ancora oggi si verificano le alluvioni. Allora, quello che noi dobbiamo fare adesso come amministratori locali è quello di fare pressione affinché venga prestata l'adeguata attenzione alla salvaguardia idraulica del territorio. Ora, per quanto riguarda gli interventi di cementificazione, è vero che anche questi influiscono poi sugli scogli, in realtà quelli inferiori, che vengono controllati dai consorzi di bonifica. Per quanto riguarda invece i fiumi di cui noi ora stiamo parlando, vanno fatti altri interventi che appunto riguardano il rafforzamento degli argini, che riguardano la ricalibrazione degli alvei perché deve essere allargati, e la realizzazione di casse di espansione. Quando si parlava prima di Venezia, ecco, giusto per fare un appunto, è chiaro che mi sto documentando, perché poi di fronte a questi problemi bisogna avere secondo me anche una visione un minimo. Uno storico. Deve mettersi un po' a studiare, sì, quello che viene, sì. Prima. Sì. Esattamente, perché sennò noi ci troviamo, e questo l'ho imparato anche in questa emergenza, a dover prendere delle decisioni all'oscuro di tutto. Invece per poter prendere delle decisioni ponderate bisogna anche avere conoscenza. Allora, la Serenissima cosa ha fatto? Per evitare l'interramento della laguna, perché i fiumi con i vari detriti, i vari canali portavano verso la laguna e rischiava l'interramento, è stato deviato il corso, e questo ha favorito le esondazioni in terraferma. Tra il padovano e il veneziano non sono mai corsi, ecco, non è mai corso buon sangue. Ma infatti ha sentito che ne ho una qualche cosa, avendo studiato l'evoluzione del regime dei magistrati idraulici della terraferma e la Serenissima, so che qualche tensione nel tempo c'era, insomma, ecco. Ora un secondo, perché c'è un'informazione a proposito di vie di trasporto, un'informazione sulle strade. Eccoci tornati in studio, la parola a Giuseppe Bortolussi, la sua impressione sull'evoluzione di queste due ultime settimane, la raccolta dei dati da parte dei comuni, l'ulteriore aumento della sospensione, dei termini della sospensione senza certezza per il momento per quello che riguarda poi le esenzioni dagli obblighi tributari, per quanto tempo e di che tipo per le imprese, come stanno le cose a tuo giudizio? Stanno che bastava far tesoro di esperienze precedenti, per esempio nel 2008 Mestre è andata sott'acqua, i danni sono stati soprattutto alle abitazioni, alle famiglie, un po' meno alle imprese, nel 2008 è andata sotto Venezia. Da quello, tra l'altro, diciamo, Mariano Carraro ha gestito come commissario queste emergenze e le ha gestite bene, tanto è vero che io su un fondo sul Corriere del Veneto ho scritto: date spazio ai tecnici, perché un politico è bravo quando dice di no, è bravo quando stabilisce le priorità, ma quando anche si sceglie dei bravi tecnici, ma soprattutto ascolta gli altri. Vedi Giannino, il problema è questo, è un po' una commedia degli orrori questa qua. Allora, fanno un decreto il 26 di novembre, dopo che era già scaduto il 16 di novembre il termine per i pagamenti, per i sostituti, esatto, di imposta, eccetera, e la gente ancora con i piedi a mollo doveva andare a pagare, perché altrimenti le sanzioni sono dure. Dopo passati sei mesi, un anno, nessuno si ricorda più e purtroppo la burocrazia, mi spiego, ti chiede e ti presenta il suo conto. Il 30 fanno un decreto del Ministero del Lavoro che non è mai arrivato in Gazzetta Ufficiale. Il 1 di dicembre fanno un decreto finalmente che proroga fino al 20 di dicembre, ma scusa, il 20 di dicembre si pagano le tredicesime, sta gente ha problemi di liquidità, ma come si va a fare un decreto fino al 20 di dicembre escludendo una cosa, ti dico una banalità. Comunque io ti faccio notare, tecnicamente non voglio terrorizzare i contribuenti, però questa cosa l'abbiamo studiata un secondo con un paio di esperti. Sì. In entrambe, il fatto è che in entrambe le circostanze delle scadenze di novembre, cioè il 16 e il 30, il governo centrale si è messo nelle condizioni che le agenzie delle entrate locali potranno, poiché sono passate le scadenze senza norme chiare e cogenti a livello nazionale, andare avanti e dire no, voi perché non avete pagato, e lo potranno fare anche per la scadenza seconda. Questa è una roba terrificante. Ma è per questo che io insisto, noi abbiamo fatto una battaglia, noi della CGA, sul Sole 24 Ore, sui quotidiani locali, che ci hanno dato, per dire la verità retta, ricordando a questi signori quali erano i termini e le scadenze. Mi sembra impossibile che non ci siano tecnici. Ma è impossibile, ma l'hanno fatta apposta, dai, l'hanno fatta apposta. In questo caso, guarda, non lo dire tu, lo dico io. Lo Stato si comporta da ladro, questo è il punto. Perdonami, io perdo il lume dell'intelletto su questo. Giannino, e poi ti voglio dire questo, cioè, questa è veramente la commedia degli orrori. Rinvio al 20 di dicembre, è una presa in giro. Guarda, gran parte delle persone stanno lavorando di giorno e di notte per cercare di consegnare le merci per non perdere i clienti. Cosa vuoi che abbiano in mente, di pagare le tasse o di fare l'intrastat? Cioè, ci sono delle scadenze per delle comunicazioni di carattere statistico che di per sé non costano niente, ma se tu non le fai prendi delle multe salatissime. Almeno avessero rinviate queste, ma mi sembra che lì non si sia capito niente. Sinceramente io sono perplesso, perlomeno, non dico una, ma non riesco a capire da dove venga questo discorso. Poi voi vi chiedete come mai i veneti hanno fatto poche domande, perché vedi, c'è un paradosso strano. E immagino che tutti lo capiranno, quando vuoi fare troppo in fretta, escludi, hai capito? I tempi per presentare le domande erano 45 giorni come minimo dal fatto, perché altrimenti la gente non ce la fa, perché occorre raccogliere la documentazione, occorre chiamare il tecnico che faccia la perizia giurata quando il danno è superiore ai 30.000. Non è, io che ho vissuto quella di Mestre, che ero assessore al Comune di Venezia, abbiamo dovuto concedere la proroga per la presentazione delle domande. Per dare forza a quello che stai dicendo, il più dei comuni della parte colpita dall'evento, fino a sabato sera non ha avuto la modulistica necessaria, e il 6 doveva consegnare tutti la lista e i documenti, il 6 dicembre, cioè due giorni fa. È qui la assurdo la cosa. E poi guarda, te la cito dal Sole 24 Ore, che quelli della lista entro il 30 dicembre devono produrre ai sindaci dei comuni di residenza una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine al fatto degli eventi alluvionali hanno prodotto il fermo della propria attività economica e determinato l'adozione dei loro riguardi di provvedimenti di sgombero o di evacuazione. Già qua siamo al ridicolo. Questa è gente, mi spiego, che sa lavorare, sa produrre, si confronta con il mondo, produce soprattutto per la Germania, parlo del manifatturiero di quell'area lì, sa, mi spiego, relazionarsi con questi, ma giustamente di fronte a questa burocrazia, nonostante il grande aiuto che hanno dato i nostri sindaci, perché di qualsiasi colore siano, si sono comportati molto bene loro, per fortuna c'erano i nostri sindaci vicino alla gente, vedi, non riescono a presentare le domande, quindi una presa in giro doppia, vedi, e poi chi è stato alluvionato, scusami, ma se l'acqua arriva fino al civico 14, no? Al civico 16 quello non è arrivata l'acqua, ma non può mica percorrere la strada, non può mica andare a lavorare, non può mica portare fuori la merce. È stato veramente un esempio il Veneto da studiare di malagestio, veramente, perché qui bastava fare come si faceva una volta, un decreto del Ministro dell'Economia. Esatto. Quell'area individuata, perché adesso. Ci sono anche i satelliti. Esattamente, e non capisco perché, malgrado le tecniche nuove che abbiamo, tutto quello che si è fatto in occasione di altri eventi in questo non è avvenuto. Ci deve essere per forza una ragione, non è solo gettito, perché non siamo veramente ridotti da non capire che per il gettito diamo termini così brevi, così prescrittivi, di fronte a una popolazione che si autoscrema nel presentare le richieste. Comunque, questa è la condizione che ancora una volta vi abbiamo rappresentato. Noi di fronte alle nuove scadenze fiscali continueremo, io personalmente, a rompere le scatole, e anzi, bisogna dirlo, certe volte bisogna dire le parole giuste, a rompere i coglioni a uno Stato ladro, per quello che mi riguarda. Grazie a Giuseppe Bertolussi, grazie a Elisa Venturini, sindaco di Casalserugo, e a Claudio Miotto, presidente del Confartigianato del Veneto, grazie a Gaetano Tebaldi, vice sindaco di Soave, presidente della locale Coldiretti, grazie a voi tutti, appuntamento a domani, linea al giornale radio.